Cerchiamo ora di scoprire come può funzionare una economia spirituale femminile. Analizziamo quanto succede in una comunità spirituale. In un ambito come quello della comunità spirituale, ciascuno lavora per il bene comune, che è anche il suo, e lo fa al meglio delle sue possibilità. Questo è importante, senza badare se gli altri lavorano di più o di meno, poiché sa che ciascuno è responsabile nei confronti del suo livello di coscienza di lavorare al meglio delle sue possibilità. Inoltre nessuno avrà bisogno di dimostrare il suo valore, poiché sarà l'ottimo stato di salute della comunità intera a proclamare che ciascuno ha lavorato al meglio delle sue possibilità. Nessuno cercherà di lavorare al di sotto delle sue possibilità, poiché il suo cattivo lavoro si tradurrà immediatamente in uno squilibrio generale di tutta la comunità e verrà quindi identificato proprio come nel corpo umano le cellule tumorali sono visibili e identificabili e portano squilibri al corpo intero. Dunque, nella comunità spirituale ognuno lavorerà al meglio delle sue possibilità, non per paura di una punizione, ma perché è consapevole che il suo contributo è fondamentale per l'equilibrio della comunità dalla quale dipende il suo benessere personale. Nessuno può stare bene all'interno di una comunità che sta male. Dunque il benessere collettivo è presupposto per il benessere personale. Diventa a questo punto evidente che il benessere individuale e quello comunitario sono profondamente interconnessi. L'uno si identifica con l'altro. Non che l'uno sia più importante dell'altro, sono importanti ugualmente, poiché senza l'uno non può sussistere l'altro. Questo non significa che chi si ammala debba lavorare ugualmente. Infatti, stiamo parlando di lavorare al meglio delle proprie possibilità e non al di sopra delle proprie possibilità, che sarebbe controproducente. Ognuno è tenuto a dare quanto è nelle sue possibilità, con gioia e allegria e nell'ottimale utilizzo del suo sistema energetico. Se un membro della comunità si ammala, cosa che comunque in linea di massima non dovrebbe succedere, viene amorevolmente curato da chi ha spontaneamente scelto come suo lavoro di occuparsi dei malati. Naturalmente verrà curato gratuitamente finché non sarà in grado di riprendere le sue normali attività e la sua vita, tornando a dare il suo gioioso contributo alla comunità intera. L'ottimizzazione del lavoro di ciascuno non viene ottenuta in modo sanzionatorio, bensì naturalmente, spontaneamente e con amore da ciascun membro, il quale si occupa proprio di ciò che gli piace fare e quindi non si stufa e non si stanca. Il tutto in virtù di una consapevolezza e di un legame energetico-spirituale che unisce tutti i membri della comunità. Nella comunità spirituale, chi ha necessità di un bene costoso, per esempio una casa, non ha bisogno di accumulare denaro fino all'ammontare sufficiente a soddisfare il suo bisogno. In questo caso comprare la casa. Così sarebbe costretto a procrastinare il suo soddisfacimento fino al tempo in cui avrà raccolto abbastanza denaro. Nella società senza denaro non occorre aspettare, perché ci sarà chi, per sua scelta e soddisfazione, costruisce case e gratuitamente le mette a disposizione di chi ne ha necessità. Colui che fabbrica case non ha bisogno di farsi pagare, poiché sa che può ottenere in forma assolutamente gratuita e immediata tutto ciò di cui ha bisogno, purché sia disponibile, tanto per le sue esigenze personali quanto per il suo lavoro, da chi produce gli altri beni e li mette liberamente a disposizione della collettività, proprio come fa lui stesso. In questo contesto, il denaro è assolutamente inutile, poiché nella comunità spirituale la causa prima della sua stessa esistenza, ovvero la paura di essere soli, viene a cadere. Qui ognuno svolge con gioia e al meglio il suo lavoro che, non mi stanco di ripeterlo, lui o lei stessa hanno scelto e che è il più adatto alla loro crescita spirituale. Naturalmente in una comunità spirituale lo sviluppo della coscienza e il risveglio delle memorie sono i primi obiettivi della vita. Il lavoro manuale può essere considerato come uno strumento per giungere alla consapevolezza. Non esisteranno più persone che svolgono malvolentieri lavori per i quali non sentono alcuna vocazione. ma che sono costrette a fare per avere in cambio uno stipendio. La mancanza di vocazione porta alla mancanza di entusiasmo e alla demotivazione. Queste sono le cause di un lavoro fatto male, quindi l'esatto contrario del lavorare al meglio delle proprie possibilità. Provate a pensare quanto impegno mettete nel fare ciò che vi piace e quanto poco in ciò che non vi piace. Se aveste la possibilità di ricevere una remunerazione per fare esattamente ciò che vi piace, non sareste contenti? E se anziché ricevere la remunerazione vi fosse chiesto semplicemente di mettere il frutto del vostro lavoro a disposizione della società e di godere nel contempo liberamente e gratuitamente del lavoro altrui, cosa cambierebbe? Perché il denaro dovrebbe modificare le cose? Se la società vivesse reciprocamente così, il denaro sarebbe del tutto superfluo. In questo modo, tutti i prodotti e i servizi necessari alla comunità sarebbero presenti e liberamente accessibili a tutti, senza bisogno di denaro, realizzati con amore e con gioia per il semplice piacere di lavorare, con la consapevolezza e la certezza assoluta che ogni proprio bisogno verrà soddisfatto dal lavoro di altri, i quali, a loro volta, svolgono il loro lavoro con gioia e passione. In questo tipo di società, l'accumulazione non avrebbe più senso di esistere, poiché ciascuno, in quanto membro della società, vedrebbe le sue esigenze soddisfatte in tempo reale e nel miglior modo possibile, come semplice risultato del suo stesso lavoro per la collettività. Che senso potrebbe mai avere fare delle scorte? Anche l'accumulazione di capitale è una forma di scorta. Se si è sicuri che il proprio bisogno sarà soddisfatto nel momento stesso in cui si manifesta. Che bisogno ho di riempire il frigorifero se so che ogni giorno trovo sul mercato gratuitamente proprio l'alimento che ho voglia di mangiare e devo solo passare a prenderlo? Non sarà più plausibile la scusa che non c'è tempo per fare la spesa e che quindi sia costretti a concentrare questa, tra virgolette, ingrata operazione in un dato giorno della settimana. Infatti, nella comunità spirituale i ritmi di lavoro sono ridotti, non essendoci consumismo. Ci sarà più tempo libero e quindi anche quello necessario per recarsi ogni giorno a procurarsi l'alimento di cui abbiamo bisogno, poiché diventerà evidente che è necessario ascoltare ogni giorno i bisogni del corpo, che ci suggerisce cosa mangiare per essere in piena forma. L'atto di alimentarsi diventerà più consapevole, più frugale, ma più nutriente. Prendersi cura di nutrire il proprio corpo sarà un momento di consapevolezza e di connessione con se stessi. Così come non ci sarà più bisogno di un guardaroba pieno, due o tre capi impeccabili, creati in modo artistico-artigianale, saranno sufficienti fino al loro esaurimento, quando saranno sostituiti da altri. Svolgere il proprio lavoro al meglio delle proprie possibilità è importante per l'equilibrio e la buona salute dell'intera collettività, poiché la positività emessa da tale tipo di lavoro e il pensiero che lo accompagna crea un corpo energetico intorno alla comunità stessa che ne garantisce la piena forma fisica, mentale e spirituale in ogni momento. Se un solo membro della comunità non lavorasse al suo meglio, per pigrizia o demotivazione o furbizia, il gran fluire di energia positiva riceverebbe una scossa e si bloccherebbe. Gli altri membri sarebbero indeboliti dalla parte di lavoro mancante e non sarebbero più in grado di produrre al meglio la loro parte, causando quindi una carenza nell'intero sistema, che si scaricherebbe infine anche sull'individuo che aveva dato origine alla catena involutiva, danneggiando anche lui stesso. Tutti siamo collegati, nessuno può star bene se gli altri stanno male. Come concretizzare la economia femminile spirituale nel mondo? Questo modello economico non ha nessun limite di realizzazione se non quello dell'uniformità del livello di coscienza delle persone che vi partecipano. Naturalmente il senso etico e l'onestà devono essere insiti e ben radicati nell'anima di tutti e tutte coloro che vogliono vivere nel mondo economico. Questo, per fortuna, è l'unico presupposto vincolante, ma anche superabile, poiché vi sono modi per raggiungere un uniforme innalzamento della coscienza e di seguito vedremo come. Salire ad un nuovo livello di coscienza. Il nuovo modello di società si può realizzare solo a seguito di un cambiamento del livello di coscienza degli esseri umani. Per poter scardinare la coscienza della personalità, agganciandoci definitivamente al sé impersonale, ovvero al tutto, all'holos, l'unico metodo è intraprendere un cammino spirituale. Yoga, meditazione, self-help, viaggi sciamanici, channeling, medicina naturale, psicodinamica, arti marziali, tai chi, qualunque disciplina ci aiuti a cominciare un percorso di conoscenza olistica e di innalzamento del nostro livello di coscienza va bene. Io personalmente ho cominciato con la psicodinamica e lo yoga. E ho proseguito con la meditazione, il mantra chanting, i rituali sciamanici per entrare nella nuova dimensione di cui parlo. La meditazione consente alla coscienza di abbandonare il corpo fisico, sede della nostra personalità e magazzino di tutte le nostre paure, e di fissarsi invece nei corpi sottili, dove la percezione di essere parte di un tutto armonioso ed efficiente è sperimentabile, anzi è la condizione normale. Tale esperienza dona una sensazione di calma, di gioia, di serenità che scaturiscono quando si riesce a mettere a tacere la paura. Lo stato meditativo è uno stato dell'anima che presuppone il completo rilassamento del corpo, anche se si sta agendo. Il respiro diventa lento e ritmico, i pensieri placati e l'animo calmo. Vi sono azioni che ugualmente favoriscono uno stato meditativo, come passeggiare, cucinare, lavorare la terra. In quella condizione, l'essere immortale che è dentro ognuno di noi si libera dai vincoli terreni e mortali e si eleva in dimensioni fuori dallo spazio-tempo, dimensioni dove tutto è chiaro e dove la consapevolezza dell'unione con la parte divina diventa lo stato d'animo naturale. La meditazione e la ricerca spirituale sviluppano la coscienza dell'unione e dell'amore cosmico, cancellando la falsa credenza di essere soli e isolati, separati dal cosmo e dalla grande madre. Grazie alla meditazione e al mantra chanting si possono sperimentare in forma sempre più prolungata stati d'animo di tale beatitudine e calma che è possibile comprendere come la nostra vera natura sia spirituale. Infatti, lo stato d'animo della meditazione ci fa stare bene in modo assoluto. Se la nostra vera natura fosse quella materiale, noi staremmo bene solo nello stato razionale, con la coscienza centrata nell'ego. In questo caso, però, non si potrebbe comprendere perché la maggioranza delle persone soffra di ansia, depressione, paura, solitudine ed emotivazione seguita da forti sentimenti di rabbia. Proprio l'illusione di essere separati dal tutto provoca la paura, dalla quale abbiamo detto nasce la sensazione della solitudine che sta alla base della brama di denaro e della sua accumulazione. Nell'illusione della separazione il denaro diventa il nostro alleato e la nostra unica difesa contro la solitudine e l'isolamento dal resto della razza umana. Quando invece ci si allena a meditare e si arriva a vivere costantemente in uno stato meditativo, cioè collegati alla fonte di energia suprema, qualunque cosa si stia facendo, si capisce come tutto fluisca in maniera facile e armoniosa, senza sforzo. La Grande Madre provvede a tutte le sue creature, se solo esse imparano a tendere le mani e a cogliere amorevolmente e con rispetto i frutti che ella offre. La vita diventa un benefico affidarsi al flusso dell'energia e i problemi vengono vissuti esclusivamente come momenti di autodiagnosi per verificare a che punto è il proprio livello evolutivo. Come funzionerà concretamente la economia femminile spirituale? Con il ritorno dell'età dell'oro che ora io associo allo stile di vita matrifocale, nulla sarà più veramente necessario e ognuno svolgerà solo le attività per le quali si sentirà naturalmente portata e non altre. Infatti sarebbe impossibile sentirsi motivati nello svolgere un lavoro che non è congeniale. La società sarà interamente composta da artigiani, cioè da tutti coloro che esercitano un'arte, che chi coltiva la terra, chi alleva, chi pesca, chi crea manufatti, chi costruisce case, chi coordina, chi progetta, chi amministra le materie prime, chi alleva i bambini, che saranno sempre meno perché la vita umana sarà molto lunga. E infine chi si dedica all'arte propriamente detta, danza, musica, pittura, scultura, canto e quant'altro. Poiché tutte e tutti lavoreranno al meglio delle proprie possibilità, per i motivi esposti prima, e poiché non esisterà più accumulazione né consumismo, ad ogni persona rimarrà molto tempo libero da dedicare ad altre attività che portino allo sviluppo spirituale, come la meditazione, il channeling, le passeggiate nella natura, l'esercizio fisico, lo sport, il silenzio, l'astensione dal cibo, la cucina consapevole, lo studio e la pratica di attività psicofisiche come lo yoga o le arti cino-giapponesi, le cerimonie e i rituali sciamanici. Il tempo libero verrà inoltre ottimizzato da altri artigiani che producono libri, organizzano viaggi o spettacoli o gruppi di lavoro per seminari spirituali o per attività agonistiche sportive. Per fare un esempio concreto, io, artigiana, produco utensili di legno perché mi piace lavorare il legno e lo faccio con amore e passione. Porto le mie ciotole al mercato e le espongo su un banco lasciandole a disposizione per chi ne ha bisogno. Non riceverò denaro in cambio delle mie ciotole, però potrò a mia volta girare per il mercato prendendo dai banchi tutto ciò che quel giorno mi necessita. Cibo, libri, abiti e scarpe, rimedi naturali ed erbe, coperte, legna, mezzi di trasporto e quant'altro senza pagare nulla. Me ne servirò con gioia e rispetto, prendendo solo la quantità che davvero mi serve e lasciando il resto a disposizione degli altri. È così facile, così naturale, così giusto. Gli spostamenti con mezzi di trasporto che richiedono l'utilizzo di carburante si effettueranno solo quando strettamente necessario, così da offrire alla Madre Terra la possibilità di rigenerare il carburante estratto dalle sue viscere e di smaltire l'inquinamento. Sicuramente non esisterà più tutto l'andirivieni in auto per lavoro da una città all'altra, poiché ciascuno potrà lavorare vicino alla sua casa o trasferirsi definitivamente dove ci sono le materie necessarie al suo lavoro. Questa assurda, inquinante perdita di tempo dovuta al pendolarismo dovrà finire per forza. Verranno ricordate le nostre innate capacità di teletrasporto e quando questo non sarà possibile, saranno introdotte nella comunità tecnologie di produzione di energia alternativa eco-compatibile, solare, fusione a freddo, idrogeno, eccetera. Per comunicare non ci sarà più bisogno di telefoni e simili, poiché si svilupperà in ognuno l'innata arte della telepatia. Come insegnano le tecniche della psicodinamica, l'incontro tra persone potrà avvenire a livelli più sottili, i contatti fisici tra le persone saranno più radi e riservati alle occasioni speciali in cui si desidera veramente incontrarsi con qualcuno fisicamente. Non serviranno più contatti fisici e spostamenti per lavoro a meno che due o più persone non decidano di lavorare insieme o che non sia strettamente necessario muoversi per qualche motivo. Nulla sarà rigido e preordinato. Nella società economica femminina spirituale, l'altissimo senso etico e la responsabilità personale, derivanti dal sentirsi parte di un unico corpo, faranno sì che ciascuno usi il buon senso e il discernimento nelle sue azioni e decisioni, agendo con l'unico scopo del benessere di tutti. Le attività produttive saranno svolte nel rispetto della disponibilità delle materie prime e in prossimità dei luoghi di estrazione o di produzione nel caso di attività più complesse, o ancora in prossimità dei punti di smercio per evitare l'utilizzo di carburante per trasportarle e relativo inquinamento. Inoltre, ogni regione del pianeta userà materie e prodotti ottenuti il più possibile in loco, poiché essi, in quanto detentori della stessa vibrazione del luogo nel quale verranno utilizzati, risultano essere i più adatti energeticamente. A questo proposito è stato verificato che mangiare prodotti locali è sicuramente meglio che utilizzare prodotti importati, poiché l'energia del cibo e quella di chi mangia sono simili. Gli alimenti coltivati a forza in una terra che non è la loro devono essere imbottiti di chimica e hanno scarse proprietà nutritive. Il paradosso dell'arte. Quanti esseri umani vorrebbero dedicarsi ad attività artistiche, musica, pittura, canto, e non possono farlo perché devono lavorare per portare a casa i soldi? Esseri che magari hanno anche talento e buone potenzialità, ma che non possono esercitare il loro desiderio perché impiegano il loro tempo nello svolgimento di un'attività che consenta loro di vivere e soddisfare i loro bisogni legati al denaro. E allora fanno i bancari, gli avvocati, i fiscalisti, i revisori, i notai, gli assicuratori, i commessi o gli impiegati. Questo perché le attività artistiche, tra virgolette, non rendono a chi le pratica a livello amatoriale. Conosco dirigenti d'azienda, amministratori delegati, imprenditori che si dedicano all'acquarello, al karaoke, alla scrittura o ad altre attività artistiche necessarie alla loro anima nel tempo libero. Inoltre, l'arte è gestita dal sistema dello show business che si regge sulla speculazione. Insegna la legge fondamentale dell'economia che un bene, per avere valore monetario, deve essere scarso. Quantomeno un bene è disponibile, tanto più aumenta il suo valore, come il petrolio, i diamanti, l'oro e gli artisti. Quindi lo show business fa sì che gli artisti che possono esercitare la loro arte come mestiere siano pochi. Così l'arte rende e i manager dello show business ricavano il massimo profitto dalle esibizioni dei loro artisti. D'altra parte, molti vorrebbero ascoltare musica, assistere a spettacoli o ammirare opere d'arte figurativa e non possono farlo o perché non hanno teatri o locali vicini e non possono spostarsi, o perché i prezzi dei biglietti sono troppo alti, o ancora perché i posti sono limitati. Così i due gruppi di persone, quelli che vorrebbero creare arte e quelli che vorrebbero usufruirne, non si incontrano. E sono insoddisfatti e frustrati perché i loro bisogni non trovano sfogo. Abolendo il denaro, qualsiasi forma d'arte non verrebbe più mantenuta scarsa e non si dovrebbe più esercitare in luoghi e forme predefinite. Infatti, lo stesso show business verrebbe smantellato, basandosi esso esclusivamente sul sistema monetario e sulla speculazione. Chi vuole suonare e chi vuole ascoltare musica si incontrerebbero spontaneamente nelle strade e nelle piazze con gioia. Ogni angolo della terra risuonerebbe di musica e canto e tutti sarebbero contenti. Ciò che in questo momento viene agevolato da internet e dal sistema YouTube. Tra l'altro, svanirebbero come neve al sole anche tutte le professioni legate al denaro e alla proprietà privata. Revisori dei conti, fiscalisti, avvocati, bancari potrebbero finalmente dedicarsi alle loro attività preferite, compresa l'arte. Molte più persone utilizzerebbero la loro componente creativa, peculiare in ogni essere umano, ma soffocata perché considerata non redditizia. I musicisti, in cambio delle loro esibizioni artistiche, che essi eserciterebbero come artigiani a titolo gratuito, avrebbero libero accesso ai mercati, dove trovare liberamente disponibili tutti i beni che servono loro per vivere e per suonare. Le comunità spirituali. La comunità spirituale ideale che ho in mente si stabilirà in un luogo caldo con temperatura costante. Questo farà sì che non ci sia necessità di riscaldare i locali abitativi. Nelle vicinanze ci dovrà essere una sorgente di acqua calda dove creare bagni per lavarsi e bagni per abluzioni purificatrici. L'utilizzo dell'energia solare, prodotta da pannelli, sarà sufficiente per il funzionamento di macchinari ed elettrodomestici. In questo modo e solo in questo ci si potrà staccare completamente dall'utilizzo di energia derivante dal petrolio. Non sto proponendo il ritorno ad una vita primitiva. Non sarebbe possibile tornare a cucinare dovendo raccogliere la legna, accendere il fuoco e così via. Tutto questo ci farebbe tornare indietro ad impiegare il nostro tempo solo in attività manuali dedicate alla mera sopravvivenza quotidiana. Questo non è nelle mie intenzioni. Il fuoco con legna potrà senz'altro essere acceso, ma consapevolmente per le cerimonie e le meditazioni quando si desidera, per Per tutto il resto si utilizzerà l'energia solare. Le abitazioni saranno piccole, ecologiche e deliziose. L'igiene sarà fondamentale. Ad ogni nucleo familiare spetterà un'abitazione della misura consona e con sufficienti servizi igienici. Il gusto e la perfezione estetica dell'arredamento, che sarà semplice ma raffinato, con mobili e oggetti interamente fatti a mano, saranno fondamentali, poiché solo vivendo in un ambiente bello e pulito si può mantenere un alto livello di vibrazione. La bellezza e la pulizia sono imprescindibili. Una grande sala coperta per le attività comuni, meditazioni, cerimonie, spettacoli e intrattenimenti musicali, danza, conferenze e quant'altro sarà sempre aperta e così pure uno spazio sacro esterno per i rituali nella natura e per il solarium, dove prendere bagni di sole e scambiarsi massaggi. Inoltre sarà disponibile una biblioteca e una grande sala da pranzo con cucina, dove lavoreranno coloro che avranno scelto di cucinare per la comunità come loro attività preferita. Naturalmente, chi desiderasse prendere i pasti da sola o da solo nella natura o nel suo locale lo potrà fare in assoluta libertà, così pure chi decidesse di astenersi dal cibo. In cucina ci si potrà alternare e chi desidera aiutare lo potrà fare secondo le libere scelte e le preferenze di ciascuno. Un grande orto e un frutteto coltivati da chi avrà scelto di occuparsene forniranno cibo. Ci saranno animali allevati per le uova e il latte con cui fare freschi formaggini. Carne e pesce verranno consumati poco e soltanto in maniera rituale. Ci sarà una bottega dove saranno messi a disposizione abiti e calzature e altre piccole botteghe dove esporranno i loro oggetti tutti gli artigiani che vivono nella comunità. Ci sarà un giardino e chi se ne occupa, chi si occuperà delle pulizie, chi condurrà le meditazioni, gli artisti per i momenti di intrattenimento, gli artigiani per la produzione e la manutenzione delle cose pratiche. Un amministratore o un'amministratrice sarà incaricata di controllare il buon funzionamento delle comunità e prenderà le decisioni sulle questioni pratiche, mentre la leader spirituale sarà il punto di riferimento per le decisioni e le attività evolutive. L'attività del coltivare, raccogliere e cucinare sarà eseguita con rispetto e consapevolezza e in questo modo il cibo acquisirà maggiore energia e se ne consumerà molto poco. Ci saranno poi insegnanti, ovvero tutte e tutti coloro che hanno studiato o stanno studiando qualcosa che desiderano condividere con la comunità. Le sessioni di insegnamento verranno organizzate tutte le volte che ci sarà qualcuna o qualcuno pronto a condividere. Mentre l'insegnamento proveniente dall'osservazione diretta dell'esistenza e delle esperienze personali sarà individuale. Ci sarà chi cura, chi conosce erbe e rimedi per aiutare il corpo quando si ammala. E ci sarà poi chi si occupa di donare alla comunità vari tipi di massaggio. E la fonte d'acqua calda all'aperto per attività termale sarà disponibile in qualsiasi momento. La comunità coltiverà semi oleosi per la produzione di oli da massaggio e legumi per la produzione di farine. La coltivazione intensiva di cereali sarà soltanto un ricordo. Ci sarà poi una coreografa o un coreografo che creerà danze collettive alle quali possa prendere parte tutta la comunità quando lo desidera. Vestirsi di colore. Così come l'alimentazione, anche l'abbigliamento nella eco-società non potrà più essere lasciato al caso, ma diventerà parte fondamentale dello sviluppo e del risveglio di coscienza. Infatti, il colore interagisce con le emozioni umane. Attraverso i chakra, le bande di colore mettono in comunicazione i corpi sottili con quello fisico. Ad ogni colore è legata un'emozione e i colori si attivano a vicenda in molte sfaccettature che da soli non avrebbero. Attraverso la pelle, come si è dimostrato con la misurazione riflesso-auricolo-cardiaca, detta RAC, il corpo reagisce alle frequenze emanate dai colori, quindi il colore sulla pelle lavora le emozioni con il semplice atto del vestirsi. Diventando consapevoli dei colori che indossiamo, siamo in possesso di uno strumento formidabile per accrescere il nostro livello di coscienza in modo del tutto automatico, nel senso che non dobbiamo fare altro che scegliere il vestito del colore giusto ed esso lavorerà per tutta la giornata sulle nostre emozioni e i nostri livelli di coscienza e microinformazione dalla pelle, anche se non ne siamo consapevoli. Da Tommaso Campanella, nella sua opera La città del sole, a Rudolf Steiner, i più grandi filosofi e profeti hanno parlato dell'importanza di utilizzare i colori giusti a seconda delle emozioni che si vogliono risvegliare. C'è un motivo se i monaci orientali si vestono di arancione e il Dalai Lama di porpora. Nella futura società spirituale economica, l'abbigliamento verrà utilizzato come sistema per consentire al colore di interagire con le nostre emozioni, armonizzandole, mentre noi siamo impegnati a vivere allegramente la nostra vita. Gli abiti e gli accessori verranno creati da artigiane e artigiani preposti a questo. Saranno semplici e raffinati. Le stoffe preziose, lane e tessuti naturali consentiranno alle persone di aumentare ancora più la sensazione della gioia e del piacere di vivere, consentendo alle endorfine prodotte dal corpo di alzare le difese immunitarie. Ogni persona sceglierà o verrà aiutata a scegliere i colori degli abiti in base alle emozioni che vuole armonizzare o sperimentare. E per un certo periodo di tempo utilizzerà solo quella nuance di colori in uno o più abbinamenti. I completi potranno poi essere restituiti alla comunità e richiesti in caso di recidiva. Sarà possibile avere un certo numero di abiti personali, ma realmente pochi ai quali si sia veramente affezionati. Il resto degli abiti verrà rimesso a disposizione della comunità per non creare accumulo e scarto inutile. L'altissimo livello di igiene, consapevolezza e attenzione faranno sì che le persone si sentano a proprio agio anche con abiti usati, poiché tutto è uno e un abito usato prima da una sorella e poi da me non può darmi fastidio. Quindi, al piacere di abbigliarsi secondo la propria creatività e gusto, si aggiungerà la consapevolezza della scelta dei colori, che saranno una piacevolissima medicina per aiutarci concretamente a salire di livello. Naturalmente anche le relazioni amorose saranno aperte, poiché non vi sarà più la necessità del contratto per fissare la coppia intesa come proprietà privata. In molti mi dicono che il futuro dell'umanità sarà necessariamente una società senza denaro e che però occorrono azioni concrete per attualizzare questo progetto. Io credo però che prima delle azioni occorra un comune pensiero, visualizzato e tenuto nel proprio focus da un sufficiente numero di persone e abbastanza a lungo da permettere a questo pensiero di condensarsi in realtà sperimentabile ai nostri sensi. Da qualche parte, in qualcuna delle tante dimensioni che la scienza ha scoperto, la società già vive così e già ha vissuto così, come hanno dimostrato gli studi archeologici sul Neolitico e sul Paleolitico delle società matrifocali di Maria Gimbutas. Quindi, prima di fare, noi dobbiamo unirci per pensare, per dare forza a questa visione, o meglio per ricordare, creando così un canale rapido e indolore, perché la visione, che già esiste ed è esistita nei piani sottili, si concretizzi anche qui nel mondo della materia e della percezione sensoriale. La dottrina dell'azione senza sforzo insegna che non occorre far fatica per creare. Occorre invece direzionare il proprio pensiero e lasciare che esso ci raggiunga in modo naturale sotto forma di realtà sperimentabile dai sensi. È il nostro pensiero limitante che nutre e mantiene in vita un sistema vecchio e basato sulla dualità, sui soprusi e sulle disuguaglianze. Sarà il nostro pensiero potenziante, unitario, a tagliare i viveri al vecchio modo di pensare, nutrendo al suo posto un sistema economico, spirituale, femminile e sociale, nuovo come quello descritto in questo libro. È stato sufficientemente dimostrato che quando un gruppo abbastanza numeroso e focalizzato di persone si concentra su un intento comune, ciò che viene pensato finisce per accadere. Quindi meditiamo tutti insieme e creiamo con il nostro pensiero la nostra nuova realtà economica, spirituale, femminile. La vecchia concezione separativa e competitiva si disgregherà, mancandole il nutrimento dato dalla nostra falsa convinzione che non ci siano alternative. Fine.